sé yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Riascoltiamo la puntata di Melog andata in onda il 17 novembre. La tentazione di dare un calcio nel sedere a tutto ciò che abbiamo accumulato, costruito, amato, desiderato nel corso della nostra vita accade più o meno, avviene quando uno comincia a sentire il morso dell'età matura che ci toglie gli spasmi di giovinezza, la voglia di inventarsi il mondo, la voglia di averci a che fare con le persone con cui abbiamo avuto a che fare per una parte cospicua della nostra vita. Quindi a un certo punto uno si guarda intorno e viene assalito da una tentazione a cui pochissimi cedono realmente, ma che molti sollecitano e coltivano nel corso delle più tediose delle loro giornate. La voglia di mollare tutto, la voglia di ricominciare da zero, la voglia di reinventarsi la vita nella folle e spensierata sicurezza che sia possibile reinventarsi una vita diversa rispetto a quella che si è fatta per 20, 30, 40, 50 anni. Ancora ci si illude che si possa avere un cambiamento, si possa ricominciare da zero, però è necessario per fare questo creare un taglio, una cesura netta con tutto ciò che si è avuto attorno fino a quel momento, con ciò che ci ha contaminato. E quindi il mollare tutto dovrebbe equivalere a un lasciarsi tra le spalle con decisione e con spietatezza tutto ciò che rappresenta il cascame della parte di nostra vita che noi vogliamo rinnegare. Mollo tutto è diventato un motto, è diventata una metodologia di vita, è diventato uno slogan, un brand, è diventato anche per molti un business. Esistono varie e frastagliate organizzazioni che permettono di fornire pacchetti necessari a mollare tutto, che poi non è così facile mollare tutto. Diamo per scontato che l'aspetto affettivo, emotivo, sentimentale, affettivo ce lo possiamo buttare tranquillamente dietro le spalle, che ormai siamo così infradiciati di relazioni consumate che non abbiamo amici da rimpiangere, non abbiamo affetti da salvare, non abbiamo nemmeno degli impegni filiali che valga la pena di essere coltivati. Accade che a un certo punto uno vede i figli e se ne sono già allontanati, i rispettivi coniugi hanno preso altre loro strade, gli amici poi non sono altro delle delusioni. Quindi, tolto l'aspetto affettivo, esiste una serie di problemi pratici. Bisognerà pur vivere, anche se si va in un paradiso lontano in cui tutto è più facile, perché non è certo che uno molla tutto per andare alla periferia di una metropoli. Bisogna andare in un posto dove si viva meglio, il tempo c'è dato da vivere. 800 24 00 24. Qualcuno di voi ha messo a punto questa formula di come si faccia a mollare tutto? È proprio vero che per mollare tutto bisogna andare lontano, o si può mollare tutto e rimanere impassibilmente nel posto in cui si è prodotta la parte disastrosa della nostra vita? 800 24 00 24. La tua vita non ti piace più? Il posto dove vivi non ti piace più? Quante volte hai pensato basta, mollo tutto e vado a vivere su un'isola deserta, ma poi per l'abitudine a reiterare comportamenti che conosci non lo hai mai fatto? Forse hai paura di fronte a una scelta del genere e ti nascondi dietro le tue paure, facendole diventare comode certezze. In fondo qui sto bene, di cosa mi lamento? C'è chi sta peggio, ma perché accontentarsi e non fare ciò che si desidera veramente? Noi diciamo per paura. Vedi la vita che sta passando e vedi te stesso che non ha ancora vissuto. Questa è una testimonianza reale di qualcuno che ha mollato tutto, qualcuno che ha seguito i dettami di un sito di cui parleremo questa mattina, di un organizzatore di mollamenti drastici e finali della propria esistenza passata, si chiama appunto mollotutto.com. Volete dei motivi concreti per mollare tutto, se non vi bastano quelli che vi hanno intriso l'animo di tristezza negli ultimi, diciamo, 10 anni? Beh, io ho aperto a caso un giornale mentre ascoltavo questa clip e vedo una sorta di meringa imbalsamata. che dice: a Sanremo tanti ospiti, ma la padrona sono io. Intervista ad Antonella Clerici. Questo è un motivo in più. Siamo una coppia di gelatai veneti. Viviamo in Portogallo dal 99 e qui abbiamo aperto un piccolo laboratorio di gelati. Abbiamo optato per aprire un laboratorio e non una vera e propria gelateria, perché per noi il lavoro non è tutto, la vita è più importante, e con il laboratorio possiamo avere le due cose: lavorare quando abbiamo degli ordini o starcene a casa a leggere un buon libro, andare alla spiaggia o a passeggiare con i cani quando non c'è gelato da fare. Io continuo a darvi motivi generali, oggettivi, per mollare tutto. Voi questa mattina, chiamando all'800 24 0024, dovrete rinforzare la sensazione comune che potrebbe essere piacevole mollare tutto, aggiungendo le vostre mestizie a quelle che io via via vi elencherò, ma semplicemente sfogliando i giornali che questa mattina non ho fatto a tempo di guardare con la dovuta ponderazione. Apro sempre a caso un giornale, vedo lo stilista Valentino circondato da bellissime donne, chissà perché, e dice: un tipo tutto casa e bottega e dolce vita. Ecco, Valentino tutto casa, bottega e dolce vita è un altro motivo per mollare tutto. Massimo Dall'Aglio, buongiorno. Buongiorno. Io l'ho buttata giù un po' pesante, ma devo chiaramente stimolare le persone a telefonare, a votare il sacco e a raccontarmi meravigliosi e disastrosi motivi per mollare tutto. Ma lei è molto prudente, lei che ha messo su questa sorta di area web chiamata Mollo Tutto, dà dei consigli secondo cui fare il passo sì, ma secondo un'analisi ponderata delle situazioni, considerare bene ciò che si lascia e non fare salti azzardati verso ciò che si va a cercare. Sì, è proprio così, Mi sentite bene? Benissimo, benissimo. Ok, grazie. Sì, l'avventura Mollo Tutto consiste in una realizzazione di un sito web che feci io circa una decina di anni fa, proprio per collocare all'interno di un contenitore unico e visibile un po' da tutti le esperienze che avevo accumulato nel tempo. Quindi lei è stato il primo a mollare tutto, prima di insegnare agli altri come si faccia. Diciamo che io sono uno di quelli che l'ha sognato e ha tentato di farlo, e dopodiché sono dovuto rimanere qui per motivi più che altro familiari. Quindi non ce l'ha fatta fino in fondo. Non ce l'ho fatta, non ho potuto percorrere questa strada per problemi familiari, cose che possono capitare a tutti. Però mi è rimasta la passione, e quindi, essendo giornalista, ho applicato, diciamo, le regole del giornale, del magazine, pubblicando degli articoli che sono proprio delle testimonianze vere e reali, narrate dalla bocca delle persone che hanno fatto queste scelte, che effettivamente vivono in altri posti e hanno cambiato vita. Per quindi questo, diciamo, la prima regola per chi volesse mollare tutto, che molte volte è un moto istintivo sul quale uno poi ha modo di ricredersi, quindi aspettare un attimo e osservare le esperienze di chi l'ha fatto e vedere poi quanto questo dia soddisfazione. Esattamente, cioè avere molti contatti con italiani, quindi che sono persone come noi, non, cioè come noi nel senso abituate alle nostre cose, come quali possono essere le assicurazioni sanitarie, le automobili, le assicurazioni, la lingua. E soprattutto viaggiare molto nei posti che sono i posti dei nostri sogni, dove un giorno si vorrebbe andare a vivere, perché, ripeto, è diverso andare a fare delle vacanze in un villaggio in una settimana dove tutto è organizzato, e se non è organizzato c'è l'assicurazione di viaggio che ti va a coprire eventuali cose che vanno storte. Guardi, io vado proprio a braccio, sto sfogliando il suo sito, vedo Filippine, una famiglia italiana tra spiagge e isole a portata di tasca. Ora, vedendo centinaia di migliaia di miliardi di filippini che vengono qua in Italia, mi viene da pensare come mai un italiano dovrebbe andare nelle Filippine per mollare tutto. Beh, ognuno ha le proprie ragioni, ha la propria storia di vita, adesso una è diversa dall'altra. Io le conosco sinceramente, ma a volte qualcuno dice: io ci vado per motivi finanziari, altri ci vanno per motivi di amori infranti, altri ci vanno semplicemente per una voglia di avventura. Però chi ci va dando un taglio deciso dietro le spalle, non è una vacanza allungata, è vendersi i propri averi e reinvestire in un paese esotico, lontano, straniero, distante dal proprio, e ricominciare da capo. Certamente, proprio così. Cioè, io recensisco solamente storie di persone che non fanno investimenti all'estero perché hanno un esubero di denaro e vogliono la villa per le vacanze. Recensisco storie di persone che dicono basta, io questa vita che ho avuto fino adesso la voglio cambiare e voglio affrontare una vita diversa all'estero. Può essere che questo estero non è così lontano, potrebbero essere le Canarie piuttosto che la Tunisia o una vita in barca a vela. Ma non può essere anche che uno prende, si fa una casa o vindoli, dico il più modesto dei sogni esotici di un romano, e lì molla tutto. Ha esempi di persone, sì, hanno mollato tutto, ma è stato un confine mentale quello che hanno superato più che un confine fisico. Allora, l'esempio più bello e più vicino è molto recente, praticamente sono riuscito a trovarlo tramite la recensione del suo libro che si chiama Adesso Basta. Lui è un manager noto, ha mollato la sua professione, ha smesso di lavorare per fare lo scrittore e vivere in barca a vela. Si è trasferito da Milano alla Spezia, quindi non molto lontano, però è lontano dai legami mentali e soprattutto stressanti del lavoro, del dover rendere conto a qualcuno. È molto bello questo libro. Quindi diciamo, teniamo conto che due sono le possibilità, visto che stiamo cominciando a creare un modello, quello di andare veramente lontano, rendendo difficile anche tecnicamente un possibile ritorno, e quello di avere un drastico e radicale isolamento mentale e emotivo con tutto ciò che si è avuto prima nella vita e andare in un posto bello, piacevole, ma non necessariamente geograficamente lontano. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono... magari sono leggermente fuori tema, forse... Vabbè, proviamo, sentiamo. Ma io diciamo che mi sono ricostruito una specie di seconda vita senza dover per questo espatriare. La seconda ipotesi, lo stiamo dicendo. Non è necessario espatriare, ma l'importante è fare questo taglio radicale. Lei come ha operato questa cesura nel precedente? Diciamo che comunque verso l'età dei 43-44 anni, nonostante avessi comunque una buona posizione come professionale, perché facevo il giornalista, e una casa di proprietà e comunque una moglie con due figli sani, belli, eccetera, però poi, dato che era un meccanismo che in realtà non mi gratificava come persona, piuttosto che era una realizzazione solo apparente, ho iniziato con il cambiare lavoro, il cambiare allo stesso tempo città, quindi poi una separazione. Il cambiare donna. Cambiare donna, sì, in un secondo tempo, però non è stato quello il motivo principale, diciamo, o comunque la scintilla. Era proprio un'esigenza mia piuttosto che delle condizioni di vita che rendevano incompatibili la realizzazione di una persona con tutto quello che si muoveva attorno, insomma. Cioè un reset graduale di tutti i punti fermi, professionale, geografico, ambientale, affettivo, familiare. E lentamente, una volta che ha resettato il suo sistema operativo, come ha ripopolato poi la sua vita? E ho ricominciato a ricostruire un po' un futuro professionale, perché comunque diciamo che in ambito lavorativo le capacità di base più o meno permettono l'accesso a diverse professioni, anche in realtà non è che uno che nasce ingegnere non possa fare altro piuttosto che altre. Oh, si figura, io sono convinto che non morirò mai di fame, che potrei fare il pizzaiolo ogni momento della mia vita, quindi... Ecco, questa è, diciamo, la filosofia di base, era quella comunque di non mentalmente, di riuscire a non essere imprigionato dai finti meccanismi del benessere, quindi il non poter mettere in discussione un lavoro perché apparentemente gratificante, il non poter mettere in discussione degli affetti familiari perché apparentemente gratificanti, e quindi riuscire a liberarsi di quel vincolo è stato il passo più difficile. Una volta preso, poi in realtà non è stato così graduale, perché poi nel giro di qualche mese... No, ma io immagino che ci saranno continui e lancinanti ritorni di fiamma. L'importante è essere ben attrezzato per non tornare sui propri passi, sennò sarebbe folle. Uno lascia tutto per poi ritornare indietro, è come riscaldarsi la minestrina del giorno prima, non è un'operazione consigliabile. Invece, per esaminare l'altra fattispecie, quella del mollo tutto, vado lontano, metto tanto spazio tra me e il passato, sentiamo Ombretta. Ombretta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Lei da dove ci sta chiamando in questo momento? Da Watamu, Kenya. In Kenya, ecco, lei ha fatto l'operazione inversa. Per lei mollare tutto ha significato proprio andarsene lontano, cambiare proprio anche qualità ambientale della sua vita. Soprattutto qualità ambientale, direi, soprattutto. Lei cosa faceva prima e cosa fa adesso? Prima facevo la geometra a Ravenna, in Emilia Romagna, e lì la professione, lavoravo presso uno studio e collaboravo, diciamo, con questo studio e niente, mi occupavo appunto di, non tanto di edilizia, ma di catasto, quindi di quelli che sono aggiornamenti catastali per far pagare le tasse. Diciamo, non è giusto, è impietoso quello che sto per dire, ma nella vulgata, nella lettura comune, la professione triste squallida per eccellenza è fare il geometra del catasto. Questo è una, è un favoleggiare crudele, però è così. Dici, cosa fai? Il geometra del catasto, sparati. Ma non lo dico, lo dico con grande affetto per i geometri del catasto, ma è così. Certo. Quindi lei a un certo punto ha buttato via la sua calcolatrice e le sue mezze maniche, e come le è venuto in mente di andare in Kenya? Diciamo che inizialmente, siccome ero molto amante dei viaggi, ho viaggiato per tanti anni in vari posti, diciamo, del mondo, e mi era stato proposto il Kenya come mia vacanza, per cui ho deciso di venire in Kenya la prima volta nel 2004. Poi dopo mi sono così, non so, sono stata stregata, ipnotizzata, non lo so, dal posto, dalla gente, dall'aria, dai colori, da tutto. Per cui anche rientrando in Italia e continuando comunque a lavorare, continuando a viaggiare in altri posti... Ha deciso di stabilirsi in Kenya. Lei è fuggita da sola o con altri, Ombretta? No, da sola. Fuggita da sola. La scelta l'ho voluta fare da sola, legata a nessuno, non volevo coinvolgere nessuno se non me stessa. Quindi ho deciso da sola di provare questa esperienza. Inizialmente doveva essere un'esperienza stagionale, quindi provare questa... diciamo questa esperienza, fare questa esperienza in Kenya, quindi provata l'esperienza, ha deciso che dovesse un'esperienza per la vita. Un'ultima cosa, Ombretta, ma per quello che so io, è vero ci sono molti italiani, anche pensionati, che hanno capito che in posti come il Kenya si vive più che decentemente, quasi lussuosamente, con una pensione media che in Italia permetterebbe di fare poco più che la fame, e si stabiliscono a vivere in Kenya? Sì, lo fanno tanti lo fanno, diciamo, permanentemente, tanti lo fanno stagionalmente, quindi fanno magari l'estate italiana, la fanno in Italia, e poi quando è qua settembre, ottobre, si trasferiscono in Kenya e fanno l'estate, diciamo, africana, la fanno qui fino a marzo, aprile, per poi rientrare in Italia, perché magari hanno famiglie, figli, nipoti, per cui decidono ovviamente di passare un po' di tempo anche con la loro famiglia. Fabrizio Intonti mi suggerisce, chiedile cosa le manca, ma io penso non le manchi niente. Glielo chiedo sinceramente comunque. Assolutamente niente dell'Italia. Mi manca ovviamente mia madre, perché è l'unico legame che, diciamo, stretto che ho in Italia, però adesso lei è qui, starà qui con noi per 2 mesi, per cui diciamo che riusciamo a equilibrare anche questa lontananza. Un po' veniamo noi in Italia un mesetto, insomma, quando possiamo, e un po' viene lei, insomma, a tenerci compagnia. Poi adesso c'è anche il nipotino piccolo, per cui è giusto così, che passi anche un po' di tempo in bocca al lupo. Bocca al lupo, anzi, scusi, salutiamo Ombretta, ex geometra del catasto, oggi organizzatrice di safari, quindi a contatto con giraffe, elefanti, tapiri e leonesse. Farà sicuramente una vita migliore, che avrà dato senso alla sua scelta. Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Cioè, com'è sta cosa? Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Grazie, è bello, so. L'hai fatto tu? Pare scemo tu, Sì, questo è il vero problema per coloro che decidono, vorrebbero, avrebbero desiderio di mollare tutto, di andarsene. C'è sempre un amico impiastro che ci mette in guardia, come fa l'Irena contro Isi in Ricomincio da tre, sul fatto che non bisogna mai lasciare le proprie radici, mai lasciare le proprie sicurezze, perché in piccoli agglomerati che si mantengono sulla reciproca osservazione dei fatti altrui. Uno che se ne va è un anello della catena che si spezza e toglie compattezza tutto il meccanismo. Quindi i primi che vi impediranno di mollare tutto e di andarvene saranno le persone alla vostra stretta cerchia, che magari vi odiano, vi disprezzano, non vedono l'ora che un camion vi travolga. Ma se voi esponete a loro un vostro progetto di mollare tutto, dico: ma no, ma dove vai, ma lascia perdere, come nel film Il Basilisco della Wertmüller, questi ragazzi fradici ormai di consuetudine nel bar del paese, uno di loro ha una grande occasione, arriva una bella e piacente signora con una macchina sportiva, potrebbe portarsi a Roma uno di loro, ma alla fine tutti gli amici del bar gli dicono: ma dove vai? Che vai a fare a Roma? Rimani con noi. In questa sorta di desiderio di contagio dell'insipienza quotidiana, la persona rimane affogato e destinato a putrefare nelle proprie malfatte radici. Abbiamo oggi come argomento il mollare tutto, il desiderio di andarsene. Abbiamo già detto e sintetizzo che esistono due fattispecie della possibilità concreta di mollare tutto: quello di scappare via lontano, mettere chilometri e chilometri tra noi e il nostro passato, che forse è la più facile per dimenticare, e quella un po' più difficile, che richiede una maggiore elaborazione mentale, è creare un muro invalicabile rispetto agli affetti, alle emozioni, ai vincoli patrimoniali, professionali e sentimentali che non vogliamo più coltivare. Quindi un isolamento mentale potrebbe accadere anche nel giardino di casa propria. Uno molla tutto perché non vuol più avere a che fare con nessuno. 800 24 00 24, continuate a raccontare le vostre storie. Adesso sentirete alcune storie dei vostri colleghi. Però vorrei fare una domanda a Massimo Dall'Aglio, che è fondatore del sito www.mollotutto.com. ormai lei avrà un'esperienza consolidata di mollaturi, di persone che sono sul punto di mollare. È possibile fare una tipologia? Chi sono le persone che decidono e poi attuano il loro progetto di mollare tutto? Sì. Io in una decina d'anni ho sentite veramente tante di storie, felici e un po' meno. Una statistica, se si può fare, diciamo che generalmente sono uomini insomma, di una certa età, 40 anni. Beh, cioè, 40 anni è una certa età, io mi taglio le vene qui all'istante di fronte a tutti. È una certa età nel senso che insomma, una prospettiva di vita di 100 anni... Continua a gettare piaghe sulle sale sulle piaghe di un 55enne, cosa che vuol dire questo? No, diciamo che a 40 anni sono stufati, hanno sbagliato alcuni passi della loro vita, ecco. E quindi magari molti ragazzi giovani che girano il mondo facendo backkeeper con quelli con lo zaino, che sì, panca bestia, roba del genere. Sì, che in realtà è una tradizione anglosassone, quella del girare il mondo in anno sabbatico, che appartiene un po' all'Inghilterra come origine, e appartiene un po' meno agli italiani. Praticamente permette di dare un anno di libertà dal lavoro, dagli studi, per permettere di girare quelle che erano le ex colonie britanniche. E noi non abbiamo questa consuetudine, non abbiamo sì, la libertà noi, per noi, chiedere Gheddafi sta qui questi giorni proprio a casa nostra, quindi non occorre andare a vedere le ex colonie per respirare quell'aria esotica che fa tanto ricordo dei nostri nonni combattenti. No, dicevo, la fotografia un po' di chi va via sono giovani e girano in questa maniera, un po' zaino in spalla per un annetto, oppure chi ha viaggiato molto perché si è fatto tante vacanze, per dire, non so, in Brasile o a Santo Domingo o in Kenya come Ombretta, che tra l'altro saluto, e dopo un po'... Siete tutto un club, vedo, vi conoscete tutti. Beh. Ma sono tutti pubblicati sul mio sito. Ah, per è cui... una cosa. Per cui ci conosciamo per email. Non sfugge nulla alla sua griglia ormai di intercettazione dei fuggitivi dall'Italia. Delle persone vere che l'hanno fatto con lo spirito giusto, penso di no. Tante altre persone che invece che appartengono agli investitori in realtà non hanno mollato tutto, ma tengono delle posizioni. Esportazione clandestina di denaro, un'altra storia. Quindi. Esatto, queste persone non interessano, non fanno parte del tema del mio sito, insomma, perché in realtà non hanno mollato tutto, ma hanno preso qualcosa in più. Le donne invece, mi viene da pensare, a parte Ombretta, esiste una tipologia femminile di fuggitive e di fugaci? Le donne, se sono sole, lo fanno questa scelta di vita. Di solito se hanno dei figli vengono messe molto in difficoltà, perché normalmente si devono collocare a scuola i figli piuttosto che all'asilo, cioè il problema si moltiplica, quindi bisogna conoscere molto bene la realtà dove si andrà. perché può essere molto bella una spiaggia calda quando la vedi durante le vacanze, ma può diventare bruttissima se hai dei problemi di salute o non te la trovi, o hai dei problemi con la meccanica di un'automobile che non riesci a risolvere. Ecco, esistono... Aspetti un attimo, andiamo avanti, credo ci sono 3 telefonate, voglio cominciare a fare sentire, poi entriamo nello specifico. Quello che mi viene da pensare a me, che sono ossessionato dagli aspetti burocratici, occorrerà fare dei documenti, come uno che fa lo sfamiglio, lo sbattezzo, la biura di tutto ciò che si è fatto prima comporterà da un punto di vista burocratico un minimo di documentazione, o sbaglio, bisogna cambiare cittadinanza oppure non c'è bisogno? Sì, sì, tutto questo va fatto. Certamente, noi stiamo parlando di tutte queste cose senza pensare che ogni paese, come esattamente l'Italia fa, ha delle leggi per gli extracomunitari, come siamo noi per noi. Noi ne abbiamo di lusso, Belén Rodriguez, vedo che è stata fermata alla frontiera, che era, ecco, per esempio, aveva lasciato il permesso di soggiorno. Quindi. Per esempio, una delle situazioni più economiche è l'immigrazione per il Portogallo, cioè una legge per si chiama Retired Rented, e hanno richiesto una pensione media mensile di almeno 52.760 scudi, cioè 264 euro. Quindi diciamo, per questo si dice facciamo i portoghesi, si vanno tutti in Portogallo, è la cosa più semplice. È la cosa più economica, perché bastano 264 euro di rendita che può derivare da un affitto, da soldi della banca, oppure anche da una pensione, e lì immediatamente prendi la residenza. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Stiamo riascoltando la puntata di Melog andata in onda il 17 novembre. Sentiamo Furio. Furio, buongiorno. Buongiorno. Lei che ha fatto? Io mi sono licenziato insieme a mia moglie dalla Telecom, dove lavoravamo sabato e la domenica, con un incentivo di 150.000 euro che abbiamo investito in alcuni camper 4x4 piccoli. E, 3 mesi all'anno, da metà giugno diciamo a fine settembre, ci trasferiamo in Islanda, dove noleggiamo questi mezzi e poi li riportiamo anche in Italia. È un gioco, un divertimento. Lavoriamo solo sabato e domenica al Telecom e durante la settimana avevamo un'altra attività in un settore completamente diverso. È diventato un piccolo pezzo, 3 mesi all'anno adesso in Islanda, e stiamo organizzandoci altri 2 mesi in Marocco, nel Nord Africa. Cioè, proprio agli antipodi le vostre scelte di taglio. Beh, la vostra non è una fuga, è una specie di luna di miele prolungata. Abbiamo anche il bambino che viene con noi, il cane in Marocco, perché in Islanda non può venire, però diciamo che comunque è una scelta per tentare di cambiare la vita definitivamente. Se abbiamo una sorta di seminomadismo civilizzato, qualcosa del genere. Sì. Beh, diciamo che comunque a Reykjavik avevamo un appartamento, quindi quest'estate con internet, da dove sentivamo tra l'altro Radio 24. Quindi voglio dire, comunque non eravamo tanto nomadi, sono i nostri clienti che sono dove noi organizziamo i loro giri, nei posti più belli dell'Islanda, dove non c'è rischio, fanno un corso in Italia, diciamo, per imparare a usare questi mezzi nei fiumi, vorranno andare. Quindi il lavoro diverte perché parte dall'Italia con le persone italiane, che poi ci raggiungono in Islanda, le ritroviamo con le famiglie, a volte le accompagniamo perché hanno bambini della nostra età, quindi comunque è un lavoro. Comunque ci avete messo fantasia, il vostro non è una scelta drastica motivata da una disaffezione, un disamore per ciò che si è costruito, ma una scelta fantasiosa per non piangersi addosso e usare creativamente la possibilità di vivere bene gli anni che ancora si ha da vivere. Luisa, buongiorno. Buongiorno, la mia testimonianza è questa. È stata una scelta di coppia, nel senso che io e il mio compagno, io ho 30 anni, lui 35, ci siamo conosciuti già adulti, e abbiamo deciso di mollare tutto. Lui era un imprenditore, aveva un'impresa edile, guadagnava insomma, discretamente, anch'io avevo un'attività. Abbiamo mollato tutto, ci siamo trasferiti però non all'estero, ma nei Colli Euganei, che sono diciamo vicini a dove abitavamo, e più che altro per andare fuori dal tipo di ambiente, un ambiente in cui bisognava far vedere chi aveva di più, ostentare di più, e sinceramente eravamo stanchi di questo modo. Lei parla della media società che conosciamo tutti, esatto, crassa, sì. Ipocrita, perbenista, edonista, con poche attrattive, perché ci fosse divertimento uno ci starebbe pure, ma è che tutta gente noiosa. Quindi adesso di cosa vivete? Come fate a mettere il bollito dentro la pentola? Allora, mio marito è sempre stato un appassionato d'arte e si è messo a fare il lavoro che la sua passione, quindi si è messo a fare l'artista, quindi fa lo scultore, il pittore e vive, diciamo, della sua professione. Però le dirò di più, la nostra scelta è stata talmente positiva che noi a distanza di anni avremmo voluto trasferirci ancora più lontano, cioè proprio tagliare completamente anche le nostre radici. E ovviamente, come sentivo prima, si parlava delle donne, noi abbiamo avuto nel frattempo un figlio e non ce la siamo sentita di andare. Quanto ha adesso vostro figlio? E ha 18 anni. Beh, il momento ve ne andate lo fate felice, scusate, il momento buono. Sì, sì. Comunque diciamo che c'è ancora questo sogno nel cassetto. Beh, sbrigatevi, dire... perché lui ha ancora la vita davanti. Gli anni passano per la generazione che lo precede. Per non essere più avvelenato dalla civiltà, lui fugge. Cammina solo sulla terra per perdersi. Nella natura selvaggia. Alexander Supertramp. Tra le tante fughe mitizzate, esaltate, denigrate dal cinema, dalla commedia, dai racconti, le fughe più semplici, più banali, per la portata di tutte, quelle che ci stanno suggerendo i nostri ascoltatori, andarsene in collina a vivere d'arte, e a vivere di tranquillità e isolamento dalle persone che ci misurano ogni giorno con gli occhi, con lo sguardo e con l'invidia, fuggire lontano, andarsene in Kenya, vivere organizzando safari, molto più semplicemente provarci e non riuscirci fino in fondo. 800240024, quella di mollare tutto è un lecito desiderio, per molti anche uno stimolante a continuare a rimanere piacevolmente o mestamente invischiati nella vita che si è sempre fatta, e se ha la certezza e la rassegnazione che si farà fino all'ultimo istante, però ogni tanto pensare: ma potrei mollare tutto, come esempio fa Lina. Lina, buongiorno. Buongiorno. Lei invece ha mollato tutto. Abbiamo mollato tutto, sì. E dove state? A me viene in mente di dire mollato tutto perché le nostre due figlie, una a Trieste e una in America che fa ricerca, dicono sempre che siamo fuggiti. Beh, ma mica è un peccato fuggire, anzi, è una umana no. E benedetta aspirazione. Lei dove vive? Da 9 anni in Etiopia. In Etiopia, al sud dell'Etiopia, 450 chilometri al sud da Addis Abeba. E cosa fate? Anche voi siete andati a ritrovare le vecchie colonie. Cosa fate lì? Niente, sono partita prima io per curiosità. Il fatto che non facciate niente già mi conforta che è stata un'ottima scelta. Ah no, no, no, facciamo tanto se per quello, però... Ma lavorate oppure non, c'è... non occorre? Alla nostra età ci sembra un miracolo di essere così tanto utili alla gente. Quanti anni avete? Io 69, mio marito 71. Ah, beh, siete grandini. E cosa fate? Sì. Volontariato? Vi occupate sì, dei bambini? Sì, puro volontariato. Io mi pago anche il viaggio, mio marito glielo pagano. E, ho iniziato io, ho aperto assieme a altri medici un piccolo ospedale perché sono infermiera professionale. Ah, quindi vi occupate di problemi sanitari, di assistenza? No, no, dopo io ho lasciato dopo 2 anni e mio marito, che è sempre lavorato nella scuola, ha iniziato una scuola per mestieri che abbiamo avuto, non, guarda, da piangere, come ci ringraziano, che trovano... Ma voi ci andate per una vostra scelta personale o vi ci mandano, non so, delle organizzazioni religiose, no, no, gruppi no, di preghiera? No, è stata una scelta personale, è un puro caso, perché ero curiosa. Ero curiosa di vedere se la povertà combaciava con, come si può dire, con quei reportage che facevano la televisione. Guarda, è stata pura curiosità. Invece adesso ci troviamo bene, abbiamo iniziato una scuola solo per ragazze perché sono svantaggiate, e 650 ragazzine, è stata costruita una scuola di 400.000 euro, aiutati tutti da amici e progetti con le regioni. Vabbè, la vostra non è una scelta fugace, voi siete missionari, fate del bene, siete un ammirevole esempio di persone che dedicano la loro vita anche agli altri, cosa che non accade mai. La vostra è una scelta etica, positiva, non è la fuga da amori dissoluti, da tedi familiari, da disastri professionali, è una scelta attiva, positiva, invidiabile. Chi ce la fa a farla è veramente, di fronte a chi lo fa bisogna fare altro che inchinarsi e ammirarsi. Grazie Lina. Nello. Ciao, sono Nello, da Milano. Lei non ce l'ha fatta. Non ce l'ho fatta, no. Noi, io con la mia famiglia, c'ho un ritorno nel telefono, mamma mia. Lo so, succede. E niente, noi ho avuto un'offerta di lavoro per andare a vivere al mare, come detto, scappare da Milano. Perché la nostra... è proprio di scappare da Milano, cioè la vita di stress che si fa, si alza 5 e mezza di mattina. E invece, invece siete rimasti? Siamo rimasti, siamo andati da 4 giorni, i bambini piangevano, no, voglio stare a Milano, voglio stare a Milano. Sei schiavi fine, dei bambini, scusate, dategli uno sganassone, i bambini non possono condizionare i genitori. Lo so. Però non era facile, non è facile. Se lei ha scelto, lo dico con affetto e amicizia, ma se uno sceglie di essere schiavo dei bambocci, lo so, è brutto, però è così. Perché un mio amico ce l'ha fatta, cioè è andato a vivere in Thailandia. Pensi un po' quanto si diverte il suo amico in Thailandia. Adesso è brutto dirlo perché ci sono anche tante persone che ci vanno per cose veramente schifose, ma spero che non sia il caso del suo lui amico. È andato per lavoro ora, però dice. E lì sono in Bermuda tutto l'anno, si sta bene. E invece lei sta lì a pulire i pannolini, a scaccolare i figli. E vabbè, ognuno si sceglie la sua vita. In bocca al lupo, Nello. Paolo. Sì, buongiorno. Io sono Paolo, 35 anni. Fino a 6 mesi, un anno fa, ho girato il mondo come direttore commerciale di una grossa azienda. Sono rimasto a casa, ho deciso di scegliere la strada che mi piaceva con la mia compagna, quindi... Sì, io sono vicino a Milano, ci trasferiremo a breve a Roma, ho ricominciato col lavoro che amavo, cioè il rappresentante. Non è facile perché comunque sono scelte radicali. Senta, ma le ombre del passato, immagino ci sarà una moglie lasciata da qualche parte. Sì, c'è la moglie lasciata, riaffiorano, è stato il primo passo. Cioè, ma tornano a galla oppure ha fatto in modo che... No, sono state scelte consapevoli, fortunatamente, quella è stata la prima scelta di vivere la vita che mi piaceva. Ho avuto la fortuna di incontrare la mia compagna e è stata un'ulteriore spinta. Benissimo, continui con ulteriori spinte, spero felici. Giulia, chiudiamo con Giulia che ha mollato tutto, finalmente qualcuno che ha mollato senza rimpianto. Giulia, chiudiamo con lei. Buongiorno a tutti, assolutamente senza rimpianto, assolutamente. E dove è andata a mollare? No, non ho fatto una scelta esotica o una scelta di spiagge, ho semplicemente fatto una scelta... di qualità di vita. Di mannaia. Ero stanca. Ho portato via con me, ho convinto tutta la famiglia, non ho mio marito, non è stato facile. Ma allora non è che ha mollato tutto, si è portata al fardello dietro. Non era un fardello, la mia famiglia non lo vivevo come un fardello, il fardello era quello che mi circondava. E dove è andata? Dove siete andati tutta? Sono rimasta in Italia, non ho fatto altro che trasferirmi da una realtà come quella di Napoli, che mi stava stretta, in un'altra realtà. Sono andata a vivere in un paesino molto piccolo nel Veneto, dove c'era una qualità di vita. E qualcuno sta per a Champagne sentendolo parlare questa mattina. Qualcuno sta per a Champagne sentendolo parlare, che da Napoli è scappata, è andata in vento, si trova benissimo. Però obiettivamente ci sono delle qualità di vita a certe latitudini che non fanno rimpiangere altri sistemi di vita. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Riascoltiamo un estratto della puntata di Melog andata in onda il 12 ottobre. Questa mattina parleremo del downshifting, cioè della possibilità di fermarsi un attimo, di osservare la vita e in fondo valutare che, essendo una l'esistenza a nostra disposizione, perlomeno in questa collocazione spazio-temporale, forse non vale la pena di avvelenarsela tanto, cercando di guadagnarsi dei posti privilegiati nel mondo del lavoro. Qualcuno, devo dire, che già anticipò qualche tempo fa questo termine anglosassone. Pensate che negli ultimi mesi sono usciti 19 libri a tema sul downshifting, quindi esiste una diffusa capacità di pensare che forse si può fare a meno di vivere in maniera così febbrile il proprio lavoro. E non è detto che l'economia debba subirne dei danni, anzi potrebbe anche migliorare, anzi forse il nostro sistema così come organizzato potrebbe permetterci di vivere più serenamente, e se noi fossimo più felici sarebbe più felice tutto il mondo. Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Questo è un pensiero che Silvano Agosti, per qualche particolare, imprescindibile disegno dei rapporti fra uomini e macchine, lasciò in rete. Noi già da un anno o due lo vediamo, lo ascoltiamo, cerchiamo delle occasioni per parlarne. Silvano Agosti, per chi non lo conoscesse, chi non è romano, chi non è nell'ambiente del cinema d'essai, forse non sa chi sia, è un personaggio strano, singolare, eclettico, geniale, artistico, appassionato di cinema. A Roma un piccolo cinema particolarissimo, l'Azzurro Scipioni, lui proiettano sempre film per pochissime persone. Lui stesso è regista, un sublime montatore, forse uno dei migliori che ci sono nel nostro paese. Fa varie iniziative, tutte basate su questo principio, che in realtà bisognerebbe fermarsi un attimo, osservare, vivere la vita, assaporare la vita, non sprecare la vita che abbiamo a disposizione. Ma questo potrebbe sembrare una punta avanzata, eclettica, di un pensiero antagonista, un pensiero molto classificabile con un'idea di sinistra contro l'espansione del mondo, contro l'economia, contro il pensiero che vuole l'uomo impegnato in una continua competizione per migliorare se stesso e la propria condizione di vita. In realtà è diventato un pensiero diffuso, abbracciato, condiviso e elaborato anche in classi di esseri umani che nulla hanno a che fare con un autore singolare di cinema. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? 800 24 00 24. È estrema la provocazione di Silvano Agosti, ma è qualcosa che ormai serpeggia nell'aria, galleggia nell'aria. Sareste d'accordo? Anche voi state pianificando la vostra frenata, il vostro scalo di marcia, il vostro passo indietro, il vostro desiderio di abbassare anche probabilmente il vostro potere d'acquisto, il vostro livello di vita, perlomeno nella percezione generale della possibilità di mostrare status symbol acquisiti e consolidati e godervi di più la vita. 800 24 00 24. Come vivere il denaro? Siamo circondati dalla cultura del credito. Compra subito, paga dopo. E ci siamo dimenticati del vero valore dei nostri guadagni. Controlla il tuo debito e previene l'indebitamento eliminando una carta di credito. Buttala! Mantra. Più soldi spendi, più a lungo dovrai lavorare per pagarli. Ricorda, le migliori cose della vita sono gratis. Professor Domenico De Masi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ricordo, professor De Masi è docente di sociologia del lavoro alla Sapienza di Roma, si occupa da anni di formazione e ricerca socio-organizzativa nelle principali imprese italiane, ha scritto nei suoi saggi nel 2000 L'Ozio Creativo, edizione Rizzoli, ha anticipato quella che oggi sembra una linea, un trend, una moda, almeno si comincia a leggere ovunque del downshifting. Lei allora come ebbe questa illuminazione che ci potremmo tutti permettere di vivere meglio? Ma perché ho frequentato molto le imprese, sono stato io stesso dirigente d'azienda e ho capito che per una serie di motivi, ad esempio il fatto che abbiamo applicato all'organizzazione post-industriale fatta di lavoratori intellettuali le stesse regole nate per l'azienda industriale fatta di operai metalmeccanici e per altri motivi ancora di carattere culturale, una massa enorme di persone vive nelle aziende in modo nettamente inferiore in termini di felicità, di qualità della vita, di quanto potrebbe vivere. È un massacro senza motivo. Però professore, anch'io ho frequentato le aziende, il massacrare i dipendenti significa aumentarne il reddito, il tenerli sotto pressione significa spremerli ben bene. Non è detto. No, no, non è detto. Sì, non è detto, però diciamo le società di consulenza servono per questo. Ah sì, certo, ma non è detto perché siccome il lavoro è sempre più di carattere intellettuale e creativo, tenga conto che a metà 800 il 96% dei lavoratori di Manchester erano operai esecutivi, oggi in Italia il 67% dei lavoratori lavorano col cervello. Bene, quando si è lavoratori intellettuali occorre produrre idee, questo è ciò che il datore di lavoro compra. Bene, le idee non si possono produrre in un genere di organizzazione così folle, in cui non ci sono momenti di rilassamento, in cui non è possibile coniugare lavoro, studio e gioco in un unicum che io appunto provocatoriamente ho chiamato ozio creativo. Quindi questo tipo di organizzazione massacra i lavoratori e non è produttivo. Ecco, la cosa mi faceva riflettere e mi divertiva che il pensiero di Silvano Agosti, così espresso, sembra molto segnato e datato in una certa epoca. Oggi si direbbe è un'ideologia di sinistra, distruttiva, sovversiva, istiga i giovani a fare vite dissolute, a che ne so, farsi le canne e non fare niente la mattina e la sera. Oggi invece sembra condiviso dalla punta avanzata della produttività di tutti i paesi. In Australia comincia a essere un problema reale e concreto quello del downshift, e mi sembra che è una nazione che sul lavoro è impegnato molto, ma anche in tutta Europa comincia a essere una realtà veramente di vertice. Oserei dire il pensiero liberale sembra abbracciare questa idea. Comune al concetto di sinistra tutto il male del mondo, no? La sinistra ha avuto splendide idee, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. I migliori organizzatori moderni hanno avuto idee progressiste, quindi non c'è da avere paura delle idee di sinistra. C'è da dire che oggi finalmente anche i principali, diciamo, esecutori del credo delle business school americane, cioè i consulenti, cominciano ad accorgersi che la filosofia con cui è stata regolata l'organizzazione del lavoro fino ad oggi è una filosofia controproducente per tutti. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Vediamo se riusciamo a riportare il problema sui binari che avevamo, su quali ci eravamo incamminati. Probabilmente senza mettere in crisi l'economia nazionale, senza produrre danni comunque al paese, forse potrebbe essere possibile addirittura essere più produttivi vivendo meglio la vita. Beh, guardi, il discorso della produttività è relativo, perché c'è un primo discorso che io francamente ho difficoltà a seguire. In una società come la nostra, in cui tutto si eredita, compreso il lavoro, i rapporti e le relazioni, se io dico faccio downshifting per curare i figli, in realtà uccido i figli, perché li tolgo da ogni circuito professionale, lavorativo, sociale o da molti circuiti, e alla fine questi avranno serie difficoltà. Cioè io ad esempio faccio l'avvocato, chiudo, i miei clienti non verranno ereditati, i miei rapporti, le mie relazioni, il mio marchio fatto di nome e cognome non verrà ereditato e quindi di fatto io danneggio i miei figli. Prima questione. Quindi ecco sotto questo profilo. Diciamo che più che di liberi professionisti come avvocati il problema interessa uomini manager, persone che la loro vita l'hanno impegnata nel progredire per aumentare, migliorare la loro posizione in aziende. Anche lì nelle posizioni legali si arriva ereditando. Io ho amici manager della TIM, cui i genitori erano manager della Telecom, quindi ho amici giornalisti cui i genitori erano giornalisti. Se avessero fatto downshifting, oggi questi signori farebbero supplente a scuola. Cioè la realtà è questa. Quindi secondo lei è una grossa utopia soltanto di viziati signorini che ormai sono talmente gonfi di soldi che possono anche permettersi, potrebbe essere un'ipotesi, io non ho idee preconcette, io non posso fare downshifting perché devo mantenere una famiglia, quindi anzi devo darmi da fare oltre ogni limite umano, però probabilmente siccome circola questa idea ne parliamo. La sua idea è che appartiene a una classe sociale che si può anche permettere il triplo salto mortale di dire adesso viviamo e consideriamo il sapore della vita? Ma io no, io posso farlo io, ma chi verrà dopo di me difficilmente. Non ci vorrebbero patrimoni molto più rilevanti. Io potrei campare di rendite, ho quasi basato la mia pensione, però l'ho ereditata. Ma se non avessi avuto certe cognizioni tecniche, probabilmente il patrimonio l'avrei perso. Quindi, come vede, bisogna andarci cauti a diffondere questi messaggi che sono... Beh, diffondere, guardi, io non vado cauto semplicemente perché sto portando in superficie qualcosa che circola nei giornali, non mi accusi di... Giornali, ma poi concretamente... Sì, ma non è che stiamo istigando le persone a buttare via quello che hanno messo insieme. Stiamo dicendo c'è un fenomeno emergente, circostanziato, con una notevole letteratura, non stiamo a stracciarci le vesti, a dire non diffondere. Io sto pensando da anni e lo sto anche in un certo qual senso organizzando, e forse anche tardi per farlo, perché gli anni principali li ho bruciati in tribunale a perdere tempo, ho preso a causa che non... Però vede, lei mi sta confermando una sorta di amarezza, parla di anni bruciati, di tempo perso. Avrebbe potuto forse vivere meglio, avere un patrimonio più esiguo da parte, però probabilmente la vita se la sarebbe vissuta meglio. Io ci penso qualche volta, io ho lavorato come una bestia per tutta la vita, mi creda, non sto parlando in teoria. Molte volte mi chiedo, ma tutti questi anni chi me li ridarà mai? Assolutamente nessuno, il tempo è l'unica risorsa assolutamente non rinnovabile. Napoleone diceva, i territori si possono riconquistare gli anni no, ed aveva ragione. Vabbè, quindi è un buon motivo per parlare di quello che stiamo parlando, grazie avvocato. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.